Io camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me, aveva il viso di un bambino, aveva tutto e sai perché? Aveva gli occhi dell'amore, verdi come due lacrime d'amore, grandi. Aveva gli occhi dell'amore, verdi. Mi innamorai di lei, lei di me. Abbiamo girato per le strade come rondini perdute. Abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore. Quando il mattino ci ha svegliati, senza parlare l'ho baciata. Aveva gli occhi dell'amore, verdi, e l'ho baciata perché amo lei. Aveva gli occhi dell'amore, verdi. Mi innamorai di lei, mi innamorai di lei di me. Lei di me.